Convocati di Carlo Genta. Lo spiovente di Totti, Benassia! 4-0! Terry went with that. England just got a foot to it. Torres chasing. Confusion here. That's it! And Torres is going to get a gift! Torres does! Attenzione al Chelsea. Pallone interessante. Oscar può mettere dentro. Attenzione, possibilità. Forse fuori gioco. Il destro di Atom. Ciao a tutti, buongiorno. 800240024, Claudia Schiattone in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Valzer di mercato. La prima è una notizia conclusa di cui adesso chiedo conferma, quella relativa a Benazia. Il resto sono chiacchiere, sogni e appunto musica. Luca Marchetti da Sky, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Benazia è andato, questo è ufficiale. Sì, è andato all'Oktoberfest. È andato all'Oktoberfest per una discreta quantità di denaro, no Luca? 26 più 4, sì, sì, 26 più 4, credo che più o meno era quello che voleva la Roma, aveva chiesto partendo dai 35, tu sai sempre che poi quello che chiedi all'inizio non è mai quello che ottieni. Il giocatore voleva andare dall'inizio di questo mercato, voleva provare un'esperienza diversa, voleva provare un'esperienza da 4 milioni di euro e l'ha trovata. Senti, ma alla luce delle quotazioni di questo mercato, questi 30, mettiamo 30 per Benazia, sono il, possiamo dire, ok, il prezzo giusto? Alla luce delle valutazioni di questo mercato, sì, in assoluto 30 milioni per un difensore è veramente tanto. Sono tanta roba, infatti avevamo... era impossibile non darlo via per me. Sì, e la Roma si è presa Manolas, quindi sì, il greco al posto del marocchino che lascia. Com'è questo affare? Sì. Ma allora, a me di Manolas io l'ho visto poche volte anche al Mondiale, sinceramente mi è sempre molto piaciuto, mi hanno detto che è un grandissimo giocatore, di grandissima prospettiva, lo paga la Roma, non è che glielo tirano dietro gratis, perché l'ha pagato 13 più bonus, quindi è un investimento anche abbastanza importante. Ti dico che potrebbe non essere l'unico in difesa, potrebbe arrivare anche qualcun altro, tant'è vero che Romagnoli sta andando alla Sampdoria in prestito. Che nome ti viene in mente? Non Chiriches, più Basa e più Balanta. Che ancora non ha chiuso con la Samp. Allora, un bel incrocio, sì, tanto siamo quasi alla fine, sappiamo bene come gli ultimi giorni siano i più caldi. Arriviamo al capitolo sogni, c'è molto da fare al Milan ovviamente, e tu è stato bocciato da Berlusconi perché pretendeva troppi soldi. Torres pure prende, ed è andato all'Everton. Torres pure prende un sacco di soldi. Cerci costa molto, ma poi non capisco, cercano una punta o un esterno? Si fa anche il nome di Biabiani. Cosa serve tutti al Milan? Tutti e due. Tutti e due li cercano, tutti e due. Adesso devono cercare di incastrare i soldi delle cessioni di Balotelli e dei guadagni, delle mancate spese sugli ingaggi, per prendere anche tre giocatori, perché anche su un centrocampista il Milan cercherà di arrivare in questi ultimi giorni. Io ti dico, sul discorso di Eto'o, che costa molto come ingaggio, credo che sia una verità, ma non totale, nel senso che alla fine l'Everton evidentemente gli dava anche più garanzie, non so, immagino io, perché sì, Torres non è che guadagna meno di Eto'o, anzi. No, infatti prende un sacco di soldi. È più giovane. Ma poi c'è, insomma, Torres è un giocatore che ha 30 anni, che da diverse stagioni combina poco o pochissimo, che ha un ingaggio molto alto, che vorrebbe giocare in Champions e che non gradisce il prestito. Tutte condizioni che al Milan non vanno bene. Però il Milan ci sta lavorando, anche per un definitivo, magari con un anno in più di contratto rispetto ai due attuali che ha, cercando di abbassarglielo un po', cercando di fargli capire, guarda, se al Chelsea non giochi mai, chi da noi giochi, ritorni ad essere importante, centrale in un progetto. Questa è la strategia che sta attuando il Milan. Per l'esterno Biabiani è l'alternativa all'Estienne, che è un giocatore belga del 92 del Bruges, che è stato comprato da un fondo del Qatar, che lo appoggerà a una squadra catariota, che lo presta al Milan. Lo potrebbe prestare al Milan, questa è l'operazione. Quindi di fatto il Milan farebbe un'operazione con un ragazzo molto bravo, quasi a impatto zero. Sì, quasi a impatto zero, operazione intelligente, tornano in ballo i soliti fondi di investimento che comprano le cartelline dei giocatori, ormai è un'abitudine consumata, diciamo, da molti anni. Ha incominciato ad arrivare in Italia, questo forse è la riflessione da fare. Prima era nei paesi sudamericani che non ce la facevano a sostenere il sistema calcio, e sta arrivando anche in Italia. Io ricordo il primo esempio fu quello di Mascherano Tevez, no? Presi da un fondo investimento e poi girati al West Ham. Quindi si parla ormai di molti anni fa. Spiegami questo quadrilatero: Juventus, Falcao, Chicharito Hernandez, Vidal. Qui entriamo in un terreno minato, minatissimo. Allora, Vidal in Inghilterra sono convinti che la trattativa non sia ancora chiusa. La Juventus continua a smentire, ma io di chiudere un'operazione così importante a pochi giorni dalla fine del mercato non me la sento. Siccome tanto tenerla aperta non costa nulla, io ti dico che Vidal Manchester, se dovesse arrivare l'offerta, insomma la Juve dovrà riflettere, perché il ragazzo è tentato, potrebbe essere tentato anche da un ingaggio molto più alto. Falcao in questo momento, oggi che giorno è? 26? Sì, più oggi o meno 26 agosto, intorno alle 2 di pomeriggio, ti dico che non si fa. Non si fa? No, perché economicamente non torna nulla in questo momento. Sì, poi può succedere che domani, dopodomani, il giocatore presta, il Monaco dà il prestito, paga la metà dell'ingaggio, il ragazzo si abbassa un po', la Juventus alza un po'. E magari avanza qualcosa anche per noi? Ecco, e sinceramente la vedo difficilissima, ma proprio per non dire impossibile, perché obiettivamente non si può dire nulla di impossibile, però la vedo veramente molto difficile, estremamente complicata, la più complicata del mondo. Sì, Hernandez, Hernandez è un nome molto più concreto. Sì, anche perché anche sai pure entrare. Vidal, esatto, può entrare in questo, ovviamente in questo discorso con lo United che oggi ha preso Di Maria, che sta provando a mettere pezze un po' dappertutto, perché l'avvio di stagione è stato quello che è stato. Certamente Van Gaal solo all'inizio del lavoro, possiamo dire mille cose, però non convince nemmeno questa faccia dello United. Un'altra cosa, mettiamo che il Napoli questa sera riesca a portare via la qualificazione dalla Spagna, dai Paesi Baschi. Fellaini bisogna vedere come sta, perché se è confermato i 4 mesi di stop, sembra di no, sembra che non ci sia interessamento ai legamenti. Però comunque vai a prendere un giocatore su cui devi fare un investimento importante e devi fargli anche delle belle visite mediche, perché si è infortunato veramente una settimana fa neanche. Sì. E rimangono vivi i nomi di Sandro, di Lucas Leiva, che sono molto complicati. Stanno spuntando delle piste alternative, alcuni giocatori, anche dallo stesso Atletico Madrid, dall'Espagnol. Sono soluzioni meno roboanti, ma forse più efficaci. Sì. Sei sempre convinto che Cuadrado lascerà la nostra Serie A? Ormai non più. Non più. Questa è una grande notizia per i tifosi viola, perché penso che per la Fiorentina questo sia l'acquisto migliore della stagione. Non credo che sinceramente alle volte vadano sfruttate le opportunità se ci sono. In alcuni momenti può essere pure che non tornino. Cioè il Manchester poteva anche essere interessato, spendi 80 milioni per Di Maria e non va più Cuadrado. Barcellona si è tirato un po' indietro e quindi in questo momento lo vedo un po' freddino il trasferimento di Cuadrado, dico la verità. Io sono curioso anche di sentire i nostri ascoltatori come la pensano su tutti questi intrecci di mercato, sono ancora fiduciosi su Falcao, i tifosi della Juve, cosa pensano soprattutto i tifosi del Milan, che insomma stanno in buona parte festeggiando l'addio di Balotelli, e di questo sono certo. Dall'altra parte però non possono non essere preoccupati, perché comunque esce un giocatore che qualcosa la squadra dai fatti bravi riusciva a dare, almeno in termini di gol. Facciamo una quindicina di gol e stiamo bassi, però esce un giocatore che riusciva a produrre della merce. Un'ultima cosa per Luca Marchetti: qualcuno se lo piglia Guarin? Magari lo United, scheggia impazzita di questo mercato che sta arraffando tutti? Ma allora io credo che sia un giocatore buono, sul quale però ognuno cerca di fare l'affare, l'Inter a venderlo e eventualmente il compratore a comprarlo. L'Inter ha posto dei paletti, ha detto se lo volete costa 15 milioni almeno, e non è neanche un prezzo esagerato, no. Visti i prezzi che girano in questo momento, no, non lo è. Per alcuni giocatori. però non credo che ci siano così tante pretendenti, anche perché a Manchester Guarin va, ma per esempio allo Zenit non certo, lo so. Certo, certo. Luca, ti ringrazio. Grazie a te. Grazie Luca Marchetti da Sky. Buon pomeriggio. 800 24 00 24. Abbiamo molte altre cose da raccontarvi. Abbiamo il capitolo, il primo capitolo inglese su Balotelli. Abbiamo Cambiasso che si sente tradito. Faremo un salto in Spagna, dove il Real ieri ha vinto come al solito tra i fischi, perché tanto lì al Bernabéu o stravinci incantando e segnando 40 gol o ti fischiano, anche se vai lì per festeggiare la Champions League con una squadra che francamente sembra difficilmente battibile in Europa. Poi ovviamente andremo su una pagina del ciclismo, perché dobbiamo salutare il commissario tecnico della nazionale italiana con tutte le lettere maiuscole, cioè Alfredo Martini, che secondo me sta al nostro ciclismo come Berzot stava al nostro calcio. Insomma, tutto questo, ma soprattutto con i vostri interventi. 800 24 00 24, numero verde traffico. Tutti convocati. Believe in magic, they hope we burn. The thought is tragic, the thought is tragic. Why always me? Why always me? Allora, prima serata di Balotelli in Inghilterra è cronaca. Qualcuno avrà visto la partita e avrà visto Balotelli seduto in tribuna con un cappuccione nero calato in testa per difendersi da una pioggia battente. Non una grande serata, non un grande approdo ufficiale da ieri, in Premier League, non un grande Liverpool che ieri ha preso tre fischi in casa del Manchester City. Questa è la cronaca della serata. Ha parlato anche Balotelli dicendo, beh, la frase che più gettonata è quella: è stato un errore tornare in Italia, è stato un errore tornare al Milan, questo è il campionato più bello, quello che mi piace di più. Non so quanto siano frasi di circostanza, non so quanto queste frasi abbiano fatto piacere dalle parti di Milanello, dove invece è stato un comunicato di molto più dolce, di ringraziamento a quanto ha fatto Balotelli nel suo tutto sommato molto rapido passaggio al Milan. Ma la storia di questo ragazzo è così. 800 24 00 24, se volete commentare. Intanto vi faccio sentire l'obiettivo. Qual è l'obiettivo di Balotelli al Liverpool? Ed è un obiettivo non da pochissimo. We will see. I want to win another Champions League for sure, because that Champions League wasn't all mine. It was, I was in the team. I want to take this team to the Champions League. So we will see. Quindi avrete capito, l'obiettivo a Liverpool è quello di alzare la Champions League, di vincere la Champions League sentendo la mia, perché quella del 2010 non la sento mia fino in fondo, quella vinta con l'Inter. Il suo nuovo allenatore, Rodgers, che ha costruito l'anno scorso una squadra meravigliosa, come sapete ha perso lo scudetto per sfiga, per destino, per errori finali, quando sembrava aver già conquistato il titolo. Allora, cosa porta Balotelli al Milan, Rodgers? Brendan, you've got your man. How happy are you about that? And what does Balotelli give extra to your squad? Trouble. Sapete, no, cosa vuol dire trouble? Trouble. Paolo da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, io volevo tornare su Balotelli. Cosa vuol dire trouble? Shovel. Trouble. Tutto bene? No, guai. Trouble in inglese vuol dire guai, problemi. In realtà Rogers, problemi? Questa, sì, ha detto altri. L'ha detto Brendan Rodgers. Cosa porta Balotelli al Liverpool? E la risposta di scherzosa di Rodgers è stata: ciao, poi ha spiegato il suo pensiero, è un rischio calcolato. Non conosco a fondo la sua storia, ma senza dubbio è un rischio il suo acquisto, ma si tratta di un rischio calcolato. Ho avuto a che fare con tantissimi ragazzi simili quando allenavo le giovanili. Calcisticamente il suo talento parla da solo, ho trascorso un po' di tempo con lui, 3 ore e mezza, durante le quali gli ho spiegato cos'è il Liverpool. È un ragazzo sveglio, intelligente, ha capito a che punto è della sua carriera, che forse questa è la sua ultima possibilità. Tante volte abbiamo parlato di ultima possibilità per Balotelli, compresa l'ultima stagione con il Milan, andata così e così. Paolo, prima del suo commento le faccio sentire invece anche quanto ha detto Albertini a proposito di Balotelli. Credo che quando si da giocatore, quindi non solo nel riferimento ai Balotelli, quando si guarda sempre a quello che c'è vicino e non si guarda all'interno di se stessi, è sempre facile dare le colpe agli altri. Io credo che Mario, come ho sempre detto, è uno di quei giocatori che ha la fortuna di decidere lui su del proprio futuro e quindi non c'entra se lo farà in Italia o in Inghilterra, ma di sapere, di avere la consapevolezza che tutto quello che raccoglierà nel bene o nel male dipende solo da lui. Allora Paolo, cosa diciamo? Diciamo che io penso che Conte non lo convocherà sicuramente, dopo la dichiarazione che ha fatto ieri dicendo che il campionato italiano è stato per lui un errore, per carità, ma quelli che sfotono sul piatto che hanno mangiato fino a ieri. Sì. E questo è un discorso, ma non mi interessa venire dal Bale, ma mi interessa dalla Juve, che è una cosa molto più seria. E volevo sapere, io sento la voce, si dice in giro, che la Juventus prenderebbe Falcao in caso il Napoli non riuscisse a passare il turno. Sa lei che se il Napoli non passa il turno, la Juve gli entra 15 milioni di euro in più. È una bufala o potrebbe essere una cosa veritiera? Allora, io mi fido di quanto ho sentito prima da Luca Marchetti. Lui è molto informato, la mia era soltanto una sensazione, però ho avuto questa conferma. L'operazione di Falcao alla Juventus è estremamente complicata, perché è un giocatore che il Monaco, al quale i soldi non mancano, ha pagato molti soldi. È un giocatore che prende un ingaggio altissimo, fuori dai parametri della Juventus, fuori dal tetto salariale della Juventus. Quindi rimane, Napoli o non Napoli, Paolo, un'operazione estremamente complicata. Luca Marchetti ha detto la più difficile del mondo. Credo che Falcao non arriverà alla Juventus. Ma poi la domanda è: la Juventus ha in questo momento, cioè si è accorta in questo momento di avere così bisogno di un giocatore importantissimo, che è reduce da un infortunio, che è molto difficile prendere, che costa moltissimi soldi, per il quale servirebbe una lunga trattativa? Arriviamo al 26 di agosto a dire ok, adesso andiamo a prendere Falcao. Tutto questo non mi torna, non credo che Falcao arriverà a Torino. Napoli o non Napoli? Napoli, per il quale ovviamente questa sera faremo il tifo, perché abbiamo bisogno di tre squadre in Champions, è chiaro. Nessuna di queste è da corsa per la vittoria finale, Juventus compresa, Falcao o non Falcao, però insomma, per il derelitto calcio italiano avere tre squadre in Champions League è quasi un obbligo. Francesco, buongiorno. Buongiorno Carlo. Dica. Ascolta. Dimmi. Posso darle tu? Sì. Certo. Io riporto il problema su quello che stai dicendo prima, sui milanisti che stanno festeggiando Balotelli, che è andato via. Io non sto festeggiando per niente, non per il ragazzo, per quello che dicevi tu prima, perché intanto abbiamo perso 15 gol. Sì. Problematico o non problematico? Sì. La società purtroppo mercato non ne fa. Uh-huh. Io sono molto molto preoccupato, per non dire un'altra parola. No, ma secondo me hai ragione, però sono certo del fatto che tu appartenga ad una minoranza tra i tifosi del Milan. Io credo che la maggior parte dei tifosi del Milan siano contenti della partenza di Balotelli, giocatore con il quale, che aveva rotto la tifoseria, certamente la parte più calda della tifoseria Balotelli non la poteva più vedere. Poi se ragioniamo in maniera più lucida su un discorso strettamente calcistico, come fai ad essere contento della partenza di uno che... Poi state, lo so che via SMS continuate a ricordarmi che molti gol li ha fatti su rigore, eccetera, eccetera. A parte il fatto che i rigori bisogna anche segnarli, non è che, insomma, è chiaro che è l'occasione più facile nel calcio, però i rigori bisogna buttarli dentro. Ha fatto molti gol su punizione, su calcio piazzato, però in un Milan che l'anno scorso non riusciva a produrre palle gol, non riusciva a produrre gioco, ci si aggrappava comunque, piaccia o non piaccia ai tifosi del Milan, al talento di un giocatore che ha giocato poco per i motivi che conosciamo, tra piccoli infortuni e grandi colpi di testa in campo, troppi cartellini, troppe espulsioni, troppe giornate di squalifica. Balotelli l'anno scorso ha giocato poco, però è un giocatore che in una squadra che non funzionava, con un impiego che soprattutto per colpa sua è stato ridotto, perché Balotelli era titolare fisso nel Milan l'anno scorso, ed è per questo che si parla che abbiamo parlato a lungo dell'ultima grande occasione di questo giocatore. Ebbene, con tutti questi sema di gol ne ha segnati 15, e non è così facile adesso, senza soldi, da spendere sul mercato, senza prospettive di grandi acquisti, grandi innesti, trovare un altro giocatore che te ne butti dentro 15. Daniele Pavia, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'opportunità. Grazie a lei. Su Balotelli anch'io volevo dire due parole, nel senso, io non mi sarei, alla prima conferenza non avrei detto che tornare in Italia è stato un errore. Faceva più bella figura stare un attimo zitto a farsi un esame di coscienza, perché ogni tanto esagera un po'. Sono d'accordo. E mi viene in mente non c'era nessun bisogno di dire quella roba. Certo, anche perché ormai quello che è passato, vai avanti. Mi viene in mente una frase di Mourinho che disse: tra 10 anni saremo qui ancora a parlare di Balotelli, che aveva talento, ha fatto capire che comunque questo non cambierà mai. Ma così Mancini è sopravvalutato. Secondo me si è creato intorno un personaggio e noi pensiamo che quel personaggio abbia così tanto talento. È un buon giocatore, ma secondo me non è veramente un campione. Allora, secondo me non è sopravvalutato dal punto di vista del talento, perché ne ha davvero tantissimo. È un giocatore che però non riesce a crescere calcisticamente. Cioè non voglio discutere, non riesce a crescere come uomo, come persona, fa un sacco di stupidaggini fuori dal campo, anche in campo, che sono quelle che, ma alla fine, più importanti, perché di quelle che fa fuori dal campo sinceramente possiamo anche fregarcene. Però è un giocatore che tatticamente, ieri lo ha spiegato benissimo per l'ennesima volta Paolo Di Canio, spiegando chiaramente quali sono i limiti tattici di questo giocatore. È molto pigro, non riesce a progredire, vuole giocare sempre con la palla addosso, non riesce a fare movimenti corretti, e sono gli stessi vizi, gli stessi difetti che avevano fatto impazzire Mourinho, che avevano portato Mourinho a dire quelle cose che lei ha ricordato. Secondo me è un giocatore indiscutibile dal punto di vista del talento, certamente discutibile dal punto di vista della... mi viene voglia di dire dell'amore per il gioco, perché certe volte sembra che giochi quasi controvoglia, e un giocatore con il suo talento, con i suoi mezzi fisici che sono spaventosi, che non riesce a migliorarsi dal punto di vista calcistico, dal punto di vista tattico, insomma, rischia di rimanere sempre un mezzo giocatore o un mezzo fuori classe. Allora ci fermiamo sentendo le informazioni per i nostri amici che amano scommettere, sentendo la borsa e poi andiamo in Spagna. 800 24 0024, il numero verde. Quote e pronostici. Martedì di Champions con l'ultimo atto dei preliminari per 10 squadre. Si parte in Russia alle ore 18 con la sfida tra Zenit San Pietroburgo e Standard Liegi. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dello Zenit, è quotata 1,25, l'X è a 6, il 2 invece è quotato 12 alle 20,45. Poi altre 4 gare, si parte con Bate Borisov Slovan Bratislava, l'1 è 1,75, l'X è a 3,50, il 2 invece è quotato 4,75. A Oporto invece c'è Porto Lille, l'1, la vittoria dei portoghesi è quotata 1,60, l'X è a 3,75, il 2 è quotato 5,75. A Glasgow, interessante la sfida tra Celtic Glasgow e Maribor, l'1 è quotato 1,53, l'X è a 4, il 2 è a 6,25. Chiude il quadro il match di Cipro tra l'Apoel Nicosia e l'Aalborg, l'1 è quotato 1,80, l'X è a 3,50, il 2 è quotato 4,50. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Come un gatto negro ora, no! È un animale, per Dio. Así comienza la Liga. El Barcelona frente a Elche. Vaya. No lo pueden agarrar, ¿eh? Quiere ser titular. Titular inamovible. Y no es el gato Benzema este. Porque además juega en el Madrid, se viste de blanco el gato. Señores, complicada la historia. Este pequeño animalito. El pequeño animalito titular inamovible, ¿eh? Ne abbiamo parlato anche ieri così, en passant. È quel gatto nero che da anni abita al Camp Nou, ha fatto la sua comparsa il 4 febbraio 2012 in una gara interna con il Real Sociedad, e quell'anno il Barcellona vinse. Filippo Maria Ricci, buongiorno. Buongiorno. Vinse nulla. Però attenzione, in sala stampa poi Luis Enrique dice: no, ma che gatto nero, dice, io ero molto più preoccupato. dalla presenza di mio fratello, perché ogni volta che mi viene a vedere gatto certo, nero pure no, lui, un altro gatto certo, nero. Non avevo mai vinto con mio fratello, quindi quando ho visto il gatto ho detto no, c'è pure mio fratello. Beh, esatto, quasi l'ha detto così con accento romano perché parla romanesco, dice, e dice no, e invece poi abbiamo vinto, per cui niente, gatto nero, mio fratello, grande annata, grande stagione. Grande stagione, adesso spunta anche il talentino Munir, anni 18, che fa già parlare di sé tutto il mondo, no? Eh sì, però hai visto, no? Io ho messo è il terzo marcatore più giovane nella storia del Barcellona in Liga tra Bojan e Messi, cioè dopo Bojan e Messi, finirà con uno o come l'altro? Vediamo, esatto, vediamo. Perché lì voi, questi ne sforrano continuamente, cioè questa è una cantera inesauribile, però gli ultimi due non so, sono stati Teio e Cuenca, Teio abbastanza bene, però se n'è andato comunque, Cuenca un mezzo ritardo. Ma io guarda, sai Phil cosa ti dico, lo so che insomma per ragioni di bottega spunta una nuova stellina nel Barcellona e tutti saltiamo addosso, però credo ci sia un po' di sopravvalutazione, no? Come un giovane esce dalla cantera, ecco il nuovo fenomeno, gioca nel Barcellona, certamente no, è un crack. Guarda, aspetta, però c'è da dire una cosa. Il Barcellona l'anno scorso è arrivato terzo in Serie B, questo secondo me fa comodo al calcio italiano in generale. Terzo in Serie B con una squadra, c'aveva un giocatore di 24 anni che ha giocato abbastanza regolarmente, il portiere di 22-23 e il resto erano tutti tra i 17 e i 21. Sono arrivati terzi in Serie B, quindi che siano bravi. Nella stessa categoria la cantera del Real Madrid giocava il Real Madrid Castiglia, sono retrocessi. Sì. Che quindi che questi lavorino bene, che siano forti, voglio dire. Anche i Cardi o la Zella Keita sono usciti da lì, cioè che abbiano gente buona è innegabile. Indubbio, cioè diventare Messi è complicato, quindi adesso vediamo sto povero Munir, vediamo cos'è. Per esempio Rafinha, un altro che è uscito da lì, l'hanno mandato in prestito al Celta, l'altro giorno ha giocato molto bene, quest'estate ha giocato bene, vediamo dove va a finire. Tiago Alcantara, loro non l'hanno voluto, va al Bayern, sembrava facesse bene, poi adesso si è fatto male, cioè e la produzione è continua, certo, e poi dipende, non tutti, non sempre riesce Xavi, Iniesta e Busquets, insomma, questo è ovvio, anche perché il livello è altino, il livello è altino, ma poi soprattutto il punto cruciale è quello che hai sottolineato prima, e cioè che hanno comunque una squadra che gioca nella seconda serie, nella Serie B spagnola. Terzo, no, ma questo discorso, cioè tu metti la Juventus o il Napoli che prendono la squadra primavera e la fanno giocare non con i pari età al torneo di Viareggio, esatto, ma li fanno giocare in Serie B che ne so, su campi comunque molto, molto più difficili, molto più complicati, li fanno giocare con i grandi, 15 anni più di loro, li fanno giocare con i grandi e non con i pari età con gli altri ragazzini, e secondo me questo è questa è la chiave, dai. Questa è la chiave di qualunque cosa. Invece non benissimo Zizou. No, a parte poveretto, è passato un'ora e mezza a un metro da lui, ogni tanto ridevo perché qualche battuta era divertente, però poi gli hanno detto di tutto, insomma, male, cioè, certo, il Materazzi Ale non era male, e anche questa la sorpresa, cioè, a me, io ho giocato 15 anni e tra la terza e la seconda categoria, perché ero un fenomeno, no? E mi ricordavo esattamente lo stesso ambiente, che in tribuna c'erano i genitori o gli amici, così, che facevano le battute sul più scarso, quindi spesso su di me. Appunto, parliamo di cantera, Real Madrid ha preso un finlandese alto 2 metri, ma cioè che non potrebbe giocare neanche nella squadra del Bar, secondo me, poi magari diventerà un fenomeno, e quindi ovviamente gli erano detti di tutti i colori, lì era divertente, però al povero Zizou veramente l'hanno trattato male, e per quello io ho detto così, dico ma chi glielo fa fare, insomma, poi la squadra mi sembrava anche lì tutti i ragazzini, però sai anche l'Atletico giocava con tutti i ragazzini, mi sembravano un pochino meglio dei loro, e tanti assenti, quello che vuoi, insomma. Però, quindi vediamo se diventa allenatore, no? Se hai in mano una rosa non particolarmente competitiva, vediamo se, come e quando, al di là del carisma innegabile, del nome, di tutto il fascino che si porta addosso, vediamo che cosa riesce a fare come allenatore. Ricordati una cosa, che Guardiola comincia il 2007 in tersera, quindi quarta serie, e l'anno dopo allena il Barça, si porta dietro Busquets e Pedro che giocavano in tersera, e l'anno dopo hanno giocato la finale di Champions League. Questo anche per dire come vengono sfruttati i giovani, la differenza tra Spagna e Italia, capito? Cioè Pedro e Busquets passano dalla tersera alla finale di Champions League. Da noi la vedo dura, mettiamola così. Per esempio Fausto Rossi ieri sera ha fatto un partitone al Bernabeu, poi ha fatto anche l'errore che ha concesso il gol del 2-0 a Real Madrid, però era il minuto 90 e Benzema gli aveva dato veramente un calcione orrendo, quindi zoppicava. Cioè Fausto Rossi 23 anni non ha mai giocato in Serie A. È vero. Cioè voi gioca in Liga, cioè cosa, si viene a fare le ossa in Liga, il campionato minore, no? Tu mi insegni. Certo. No, no, ma, no, ma sappiamo che è così, eh? Sappiamo che è così, ma abbiamo, vabbè, abbiamo, no, diversi, abbiamo diverse esperienze da questo punto di vista. Anche Verratti non ha mai giocato in Serie A, eh? Esatto. Ma no, però anche, infatti anche Nazionale non è consideratissimo, no? C'era qualche dubbio. C'era qualche... L'unico che gioca la Champions e che la gioca da titolare a un certo livello con sì, una, no, squadra competitiva, però... vediamo. Per la Nazionale vediamo. Italiana che finisce fuori al primo giro, vediamo. Ah, sì, vediamo. Ascolta, invece, so che stai aspettando il Napoli domani al San Mamés, sì. Un popolo contro il Napoli, ma tu sai, sì, che noi abbiamo un spiegalo a quei signori lì, noi abbiamo un disperato bisogno, siamo poveretti, sì, abbiamo un disperato bisogno di tre squadre in Champions League. Poi ci sbattono ci fuori. Vuole il pareggio, ci vuole il pareggio, il tre pari, se finiamo 4-2 Spagna-Italia è un disastro. Sì. Speriamo, non lo so, è dura perché poi qua ovviamente c'è grandissimo entusiasmo, l'atmosfera, lo stadio pieno, il nuovo stadio, la fatta la curva, ci credono. E comunque anche quello è un altro miracolo, perché poi sempre lì torniamo, questi giocano veramente con i ragazzi che vengono qua dalla zona, sì, magari qualcuno arriva dalla Navarra, che è altri 50 chilometri, ma è gente formata qui in casa, quasi tutti, quest'anno non hanno comprato nessuno, ha comprato Borja Viguera dall'Alaves, capito? Hanno pagato 1 milione, però. Stanno lì, vanno al San Paolo, giocano bene, 1-1, domani hanno buone chance di passare, cioè io spero proprio di no per il calcio italiano, anche se poi in realtà Bilbao mi piace, l'Athletic è un'altra, che si fa fare, però domani dicevo, cioè, il Napoli deve passare, sennò veramente per noi è proprio la... già era notte, mo che dire, dopo la notte che c'è? Dopo la notte c'è, beh, dopo la notte c'è l'alba, profondo. C'è l'alba, no, Filippo, dopo la notte c'è l'alba, dai. Vediamo se c'è l'alba. Un'ultima cosa, Simeone che si becca 8 giornate, squalifica lunga quasi quanto quella di Conte, ti ricordi? Sì. Conte rientrò l'8 dicembre, lui rientrerà, salta 8 partite, rientra a fine ottobre, finisce dietro il vetro. Sono solo 4 in Liga, a fine settembre, che tra l'altro oggi ho pure scritto, ho scritto io ottobre, perché mi sono sbagliato del mese, però sono 4 le partite. E, dunque, se la vedi separatamente è corretta, perché lui ne prende 4 per i coppini, 2 per l'espulsione, 1 per l'applauso e 1 per perché si è andato a sedere in seconda fila vicino conto matematico. Esatto, quindi lì ci siamo, cioè una per una, se guardi le sanzioni ci può essere, il problema è che l'8 tutto insieme fa una grande impressione, poi quando dici che sono 4 in Liga ha esagerato, il problema è che Mourinho, stessa partita, mette il dito nell'occhio a Villanova, no. Gli hanno dato 2 giornate che le ha scontate in Supercoppa, allora dice, oppure Ronaldo da 3 cazzotti a Godin, non lo vede nessuno, tutto a posto, una munizione e via andare. Quindi è questo che fa un po', però se lo guardi, lui ha sbagliato su tutto il fronte, perché il coppino al quarto uomo non glielo deve dare, certamente. Non si deve fare spellere in quella maniera al 23esimo della partita, non si deve andare a sedere, conta che lui si va a sedere lì, no? Anzi si va a sedere, si mette in piedi lì in mezzo alla tribuna, dalla panchina della Madrid lo vedono e Cendo va a dire al quarto uomo, dice guarda che il ragazzo lì non ci può stare, quelli dell'Atletico glielo comunicano e comincia a dire, nessuno ha il coraggio di andare dal Ciolo a dirglielo. Che rischia di prendere un cazzotto. Uno va dal Ciolo, glielo dice, e il Ciolo dice: sì, tutto a posto, io da qua non mi muovo. Allora poi dopo ti squalificano, però. Allora poi te la sei cercata. Esatto. Ma no, ma magari un po' nervoso. Non lo so, ti dico, la squalifica in sé, se la guardi proprio spezzettata, non è che c'hai molto da dire. Poi è chiaro, 8 partite sono tante, fanno impressione, e soprattutto perché altri sono stati puniti meno. Tutto lì. Grazie, Phil. Buon lavoro, sentiamo, a presto. Grazie Filippo Maria Ricci. Vincenzo da Novara, prima del traffico, buongiorno Vincenzo. Ciao, buongiorno a tutti. Ciao. Due considerazioni velocissime e poi così del traffico, però mettevo lì il Novara, premesso che il Novara è andato in Serie C sul campo e deve andare in Serie C, però c'è il CONI che ha dato una sentenza di riammissione senza passare dai ripescaggi, con quell'articolo dei ripescaggi. La sentenza arriva sul tavolo della FGC e da vecchio, per carità, o ci è o ci fa, ma a questo punto sembrerebbe proprio che ci è, decide di fare i ripescaggi con quell'articolo famoso cui il dottor sarebbe escluso per illecito sportivo. Però visto da fuori sembrerebbe semplicissimo, visto da dentro magari darci tu una spiegazione. E poi l'ultima cosa, velocissimamente, settore giovanile, io ho un ragazzo del 2003, ha smesso quest'anno di fare scuola calcio, quindi nella nuova stagione va a fare gli esordienti, ma vi giuro, è da valutare che praticamente ci sono dei ragazzi bravissimi che si impegnano, ma non sanno poco di calcio, non gli hanno fatto neanche vedere come si stoppa un pallone. Allora, visto che ci sono sponsor che danno 3 milioni di euro l'anno a Conte, Conte è bravissimo, però visto che sono quegli sponsor, perché, e qui ti lancio una provocazione che tu raccoglierai e farai tua, perché non troviamo degli sponsor che mettono a disposizione dei settori giovanili, con 3 milioni si prendono un'infinità di tecnici? Io sto parlando di una città di 120.000 abitanti, basterebbero una decina di ex giocatori che vanno a vedere, fanno a insegnare a sti ragazzi. Ho capito. Allora, però Vincenzo, vi posso dire una cosa, io fossi uno sponsor, faccio un discorso commerciale, no? Voglio fare un discorso commerciale, voglio mettere dei soldi nel calcio per tirarci fuori dei ritorni di immagine, insomma, le ragioni per cui uno sponsorizza qualcosa sono piuttosto evidenti. Voglio tirarci fuori dei soldi, vado a sponsorizzare, vado a mettere quei soldi e quindi a prendermi un pezzettino di Antonio Conte, un personaggio estremamente noto. Voglio tirarci fuori dei soldi, vado a mettere una scritta sulla maglia del Milan, dell'Inter, della Juventus, se possibile. È chiaro che questo discorso sarebbe il paradiso per tutti noi altri, però mi sembra difficilmente praticabile. Secondo me questo discorso è in mano alle società. Sono società che prendono quei soldi dagli sponsor, magari perché sono forti, brave e belle, e a questo punto tocca alla società dire: ok, questi soldi, invece di comprare due giocatori in più, mi piglio, li investo sul settore giovanile, magari prendendo 3-4 bravi allenatori, organizzando bene la situazione. Quindi questo discorso non è da legare, secondo me, allo sponsor, è da legare alla politica delle varie società. Convocati. Potete chiedere rinunce a giochi della vita di tutti i giorni. Non si può andare in discoteca e poi pensare ad andare a fare 200 km in bicicletta. Bisogna sapersi alimentare, bisogna sapersi distribuire le nostre forze. Richiede conoscenza. Il ciclismo è conoscenza. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Sitting there in a silent movie beside the only girl who really ever knew me. Happy days but sad a face, and heaven knows I'm on the case. So how could I forget to mention the bicycle? Poi ha fatto tutta la vita, finché praticamente è vissuto, sempre a contatto con la nazionale, prima come commissario tecnico e poi come consulente, diciamo, e credo che lascia un vuoto, certamente. Abbiamo estratto letteralmente Alfredo Martini dalla ammiraglia, non riusciva a venire fuori da solo. Cos'è l'emozione, la gioia, che è successo? La gioia di sicuro, anche l'emozione, diciamo, che è stata una vittoria sofferta e che Bugno ha saputo guadagnare da quel bravo che è. Inoltre però penso che tutta la squadra, e non è un discorso di circostanza, si è comportata molto bene, perché abbiamo coperto tutte le fughe che si verificavano di giro in giro. How could I forget to mention the bicycle is a good invention? Ci mancherà tantissimo Alfredo Martini, monumento del nostro ciclismo, 4 mondiali vinti, dal 77 Moser al 92 di Bugno, passando attraverso l'82 di Saronni e il 91 ancora di Gianni Bugno. Ha detto una frase in una delle ultime interviste, commentando la nomina del nuovo CT, Davide Cassani: è stato scelto il primo della classe, abbiamo in lui un CT eccezionale. Un passaggio di testimone che oggi voglio sottolineare con Davide Cassani. Ciao Davide. Ciao, buongiorno. Ti ricordi quelle parole, vero? Me le ricordo benissimo, come dimenticarle. Senti, se dico, l'ho detto prima, che Alfredo Martini sta al ciclismo come Berzot stava al nostro calcio, sbaglio? No, non sbaglio affatto. Alfredo Martini è il commissario tecnico, secondo me è uno dei più grandi tecnici che lo sport italiano abbia offerto. Non parlo solo di ciclismo, parlo di sport in generale. Sai, è stato sulla miraglia per 23 anni, ha vinto 6 campionati del mondo. Ma a parte questo, era una delle persone, forse la persona più bella del nostro mondo, no? perché è sempre stato solare, onesto, è sempre stato un saggio. Tutte le volte che parlava Alfredo, tutti quelli che erano attorno stavano zitti perché non volevano perdersi una parola, perché comunque sempre Alfredo ti diceva qualcosa che potevi mettere da parte e utilizzare. Cosa ti ha insegnato? Domanda banale, però te lo voglio chiedere. Cosa ti ha insegnato da corridore, ma cosa ti porti dietro di Alfredo Martini da commissario tecnico? Perché io anche qui ho sentito le sue parole, ha detto Davide Castagna è uno bravissimo a costruire un gruppo e questa è la chiave di tutto. Sai, lui è il mio maestro in questo, sai che io sono commissario tecnico da pochi mesi, io sono diventato commissario tecnico il 4 gennaio, guarda caso a casa di Alfredo, perché è stato lì l'incontro con il presidente federale Renato Di Rocco. Mi ha insegnato che cosa vuol dire squadra, mi ha cercato di far capire con niente di eclatante, ma con il suo modo di vivere, come si affronta un campionato del mondo, come si forma una squadra, qual è lo spirito giusto per arrivare al campionato del mondo nella situazione psicofisica migliore. Sai, nel calcio vince, o in altri sport, il campionato del mondo lo vince la squadra, tutti sono campioni del mondo. Nel ciclismo il campione del mondo è uno, tutti gli altri vengono quasi dimenticati. E quindi è questa l'abilità di un commissario tecnico nel ciclismo, riuscire a creare una squadra con corridori che si corrono quasi sempre contro e alla fine la maglia ridata la porta a casa uno. Certo. E lui invece è riuscito a dare dignità a tutti i componenti della squadra, dal primo all'ultimo, e quindi con Alfredo ti sentivi importante da capitano ma anche da gregario, perché eri uno della squadra, uno che aveva scelto lui. E io, che per diversi anni sono stato il suo braccio destro, ho sempre avuto la massima fiducia di una persona come Alfredo, puoi immaginare l'orgoglio e la soddisfazione che questo mi ha dato. Posso immaginarlo e sono molto felice di sentirlo nelle tue parole. Un'ultima cosa, al giro sbocciato Aru, ti faccio un'ultima domanda da commissario tecnico invece in carica. Al giro sbocciato Aru, al Tour si è consacrato Nibali, cosa vedi e cosa chiede alla Vuelta? Alla Vuelta chiedo un Aru nei primi 10, sì, per fare ancora più esperienza. Gliel'hai detto? Ma non c'è bisogno di dirglielo, perché Aru è un ragazzo giovane ma determinatissimo, e quindi sono convinto che possa arrivare a quel risultato, anche se mai come quest'anno alla Vuelta ci sono fior di campioni. E mi aspetto anche risposte da parte di alcuni ragazzi che potrebbero vestire la maglia azzurra, perché ci sono diversi corridori bravi che stanno correndo il Giro di Spagna. Parlo degli italiani, sì, naturalmente. Sì. Beh, insomma, mi sembra che la stagione sia indirizzata bene comunque. Hai già un'idea in testa della squadra che porterà al Mondiale? Ho un'idea, perché alla fine mancano 32 giorni, quindi non manca tantissimo. Adesso bisognerà valutare la condizione di Nibali, perché sarà importante capire e sapere se Nibali sarà quello del Tour o un Nibali con una forma più scadente, diciamo così. E quindi questo naturalmente mi può condizionare la scelta di alcuni corridori, perché dovrò capire se avrò bisogno di fare una corsa dura o una corsa di attesa. Tutto sta nella condizione di Vincenzo. Grazie Davide. Grazie davvero, grazie CT, Davide Cassani. Chiudo con Matteo da Modena, 800240024. Naturalmente ho citato Cassani ha ricordato i 6 mondiali vinti da Alfredo Martini, a partire da Moser, per chiudere con Bugno, la doppietta di Bugno, Saroni in 82, poi ovviamente Argentina e Fondriest. Matteo da Modena, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, volevo il suo commento su questa situazione idilliaca che si sta creando nella nazionale, dove c'è un presidente che mangia banane, un allenatore condannato perché si vendeva le partite, proveniente dalla Juventus, e si sa di solito la Juventus come vince i campionati e le partite. Adesso lasciamo perdere questi 100 punti che sembrava che venisse giù il mondo se non li faceva. E poi dovrei anche che questa cosa qui, che Palazzi abbia archiviato questa cosa di mangio banane, non vorrei che qualche curva un po' goliardica tirasse fuori delle banane e venissero chiuse le curve per un motivo che... Venissero archiviate anche le curve, lei dice? Metta caso che la curva Matteo, posso distinguere allora posso distinguere due piani. Nella prima parte lei ha parlato grosso modo da tifoso, che ovviamente non è juventino. Io sulla storia di sul pregresso di Conte eccetera eccetera, quella vicenda che tutti conosciamo, per cui finì dietro al vetro, vabbè, è stata così, c'è stato un patteggiamento, sappiamo come il patteggiamento per la giustizia sportiva sia diverso rispetto al patteggiamento per la giustizia ordinaria. Beh, per farla breve, io penso che Tavecchio sul fronte nazionale abbia lavorato bene, perché Conte è in questo momento, con il credito che ha, il commissario tecnico ideale per prendersi sulle spalle, per mettere la faccia nei casini della nazionale. È stata fatta un'altra scelta da notizia di ieri, che secondo me è perfetta, cioè quella di Lele Oriali in quel ruolo, ne abbiamo parlato anche ieri, che è stato per molto tempo di Gigi Riva. Ora non riesco ad immaginare una figura, un personaggio migliore di Oriali per svolgere quel ruolo. Dunque, sul fronte nazionale Tavecchio ha giocato bene. Sul fronte di ciò che può succedere nella lotta al razzismo a partire dal prossimo weekend, beh, qui mi tengo i dubbi che Matteo da Modena ha espresso. Argomento interessante, se volete torniamo a parlare domani, tanto siamo qui in diretta alle 2. Roberto Scaltritti in redazione, in regia, Claudio Schiettone in redazione, ciao a tutti. Per quanto concerne la vita, è una ruota, ma questa ruota ha sempre la solita elasticità di una volta.